Gli speciali di Radio 24. Buongiorno da Sergio Nava, bentrovati a questo speciale sul secondo dibattito presidenziale americano. Alla fine neppure oggi c'è stato l'atteso colpo del KO da parte di alcuno dei due candidati in un confronto quasi interamente dominato dall'economia. Ma i sondaggi ancora una volta dicono Barack Obama. Il candidato democratico ha saputo mantenere calma e sangue freddo senza cadere nella trappola degli attacchi di un John McCain in calo di consensi. Per il campione di telespettatori selezionato dalla CNN, Obama ha battuto McCain 54-32%, risultato analogo per quello della CBS 39-27%. We are in the worst financial crisis since the Great Depression. Dicevamo dell'economia, Barack Obama è stato esplicito: viviamo la più grave crisi finanziaria dalla Grande Depressione, risultato delle politiche economiche fallimentari portate avanti da George Bush e sostenute da John McCain. Obama ha ribadito la necessità di sostenere la classe media e ha accusato McCain di voler tagliare le tasse solamente ai ricchi. Il candidato repubblicano da parte sua ha cercato di proporre una ricetta concreta per uscire dalla crisi: far acquistare dal tesoro americano i mutui a rischio per poi rinegoziarli sulla base del nuovo valore delle case, così da alleviare le sofferenze economiche dell'americano medio. Ma analizziamo ora il risultato di questo secondo dibattito presidenziale con Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, che abbiamo sentito a caldo per un commento. La mia personale impressione è che alla fine John McCain ha fatto quello che doveva fare, doveva partire all'attacco, doveva recuperare. Sappiamo che è in svantaggio nei sondaggi, si trova in svantaggio in alcuni stati chiave. Secondo me è stato alquanto rilassato, ha attaccato in modo abbastanza diretto Barack Obama, anche con delle battute. Per esempio, quando si è parlato del piano sanitario, ha detto: beh, lui vi darà una multa, ci dirà forse quanto sarà questa multa, ma gli americani non vogliono la multa. Ecco, quello è un punto debole di Barack Obama. Obama non ha risposto, è apparso leggermente in difficoltà. Ecco, davanti a questi attacchi, a queste provocazioni di McCain, Barack Obama è apparso imperturbabile, e il suo stile. Obama in questi dibattiti si è reso conto che alla fine paga la calma, la tranquillità, il non rispondere alle provocazioni. È stato molto controllato, ha portato avanti la sua causa, ha sottolineato quali sono le differenze. Però alla fine c'è stata più passione, secondo me, per McCain, meno passione per Barack Obama. Come si tradurrà questo da un punto di vista di impatto sulla campagna elettorale? Beh, secondo me abbastanza poco. Vedremo poi i sondaggi più approfonditi ovviamente domani, ma in generale una performance come quella che abbiamo visto ieri sera, grosso modo, è un pareggio, e alla fine, se non si tradurrà in un vantaggio sul campo per John McCain, alla fine risulterà un vantaggio, diciamo così, politico per Barack Obama. Ha difeso la sua posizione e forse è riuscito a farlo bene. Mario, gli americani stanno seguendo in massa questi dibattiti perché stanno cercando in qualche modo una luce, un faro verso l'uscita da questa crisi, stanno cercando ricette concrete. Tu ne hai sentita qualcuna? Guarda, c'è stato un po' un colpo d'ala oggi sempre di McCain, che ha cercato di cogliere in contropiede il suo concorrente, ha proposto un piano economico che vada a riscattare i mutui degli americani in difficoltà, un mega progetto, ha detto McCain, che vada direttamente al cuore del problema. È inutile, dice, che facciamo questi grandi pacchetti che vanno a aiutare Wall Street, un mondo corrotto, abbiamo visto, un mondo che si paga degli stipendi da favola per poi far crollare non solo il sistema finanziario, ma l'intero sogno americano. Ecco, ciascuno ha voluto dare la sua risposta a questa crisi economica. La realtà, mio caro, è che la risposta non ce l'ha nessuno. Una giornata come quella di ieri è stata una giornata devastante, un altro 5% di caduta dell'indice Dow Jones, oltre 500 punti, ormai siamo a metà di quota 9.000, 9.400, 9.500, quindi direi la situazione è davvero preoccupante. Mario, forse un elemento di sorpresa c'è stato, e cioè non ci sono state polemiche molto forti, quelle che stanno caratterizzando in questo momento la campagna elettorale, con accuse reciproche. Un po' più di attrito, ecco, direi non c'è stato perché il rischio nel portare degli attacchi o dei colpi bassi, se vuoi, e che ci sia poi un ritorno di fiamma pericolosissimo per chi ha fatto l'attacco. Quindi direi che la regola è quella di evitare questo tipo di attacchi, di farli in modo indiretto attraverso le pubblicità televisive, attraverso gli spot, attraverso i propri uomini, attraverso le persone che fanno campagna per te, ma mai esporsi direttamente perché non vuoi sembrare cattivo o velenoso, e questo è un rischio gravissimo in un dibattito come quello che abbiamo visto ieri sera. Ecco, però detto questo, mi è sembrato che all'attacco ci fosse, ieri sera sia stato più John McCain che non Barack Obama. John McCain deve portarsi in avanti perché è in difficoltà, e su tre o quattro elementi è stato davvero pungente. Per esempio Barack Obama ha parlato del Pakistan, immediatamente John McCain lo ha un po' preso in giro, ha detto ma insomma lui vuole attaccare il Pakistan, vi sembra questa un'ottima idea nel momento in cui vogliamo cercare di essere amici di uno Stato che ha una potenza nucleare? Insomma, lo ha preso un pochettino garbatamente in giro, questo è stato il massimo, se vuoi, degli attacchi. Di nuovo Barack Obama ha risposto puntuale, prudente, paziente, coerente, senza perdere la calma. Mario Platero lo anticipava, nel dibattito si è parlato anche di politica estera, sebbene solo nella parte finale del confronto, un confronto dominato per metà e anche più dall'economia. Obama, sfoderando una certa aggressività, ha detto di non aver ancora compreso l'invasione dell'Iraq quando i terroristi di Al-Qaeda si nascondevano altrove. Bush e McCain hanno commesso un errore di giudizio, ha detto. Schiacciare Al-Qaeda e uccidere Osama Bin Laden è la priorità. Ha concluso, replica di McCain, Obama non capisce la politica estera, come hanno dimostrato le sue opinioni sulla Georgia, o come appunto già ci anticipava Mario Platero, McCain ha attaccato anche Obama a riguardo del Pakistan e l'idea appunto di fare guerra contro Islamabad. Per il momento ci fermiamo qui, vi ricordo però che del dibattito, del secondo dibattito presidenziale, torneremo a parlare in XL alle ore 13 e se ne occuperà anche la trasmissione Jefferson Ming in onda alle 16. Ancora un saluto da Sergio Nava, vi lascio ora agli aggiornamenti di GR24 e poi la rassegna stampa.